Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui stasera. Abbiamo semplicemente un piccolo problema tecnico con i microfoni, però lo risolviamo subito. Grazie, stasera è il terzo appuntamento della rassegna Narrare le Mafie, ormai è la sua seconda edizione. Un progetto promosso dal Comune di Bologna, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con la preziosa collaborazione di Avviso Pubblico e della Cineteca di Bologna. Stasera affronteremo il tema dei beni confiscati, il titolo appunto è Beni confiscati, beni comuni. Come introduzione, diciamo così, al tema volevo illustrarvi un po' quello che è il percorso che il Comune di Bologna sta facendo su un bene confiscato in particolare all'interno della nostra città, che è il bene di Villa Celestina, un bene che ci è stato assegnato più o meno un anno fa, che stiamo cercando di far rivivere, proprio per dargli quel riutilizzo sociale che tutti quanti i beni dovrebbero avere. In questo primo anno di riutilizzo parziale del bene, perché comunque è un bene che ci è stato assegnato dopo tantissimi anni, è un bene che va completamente ristrutturato e sul quale stiamo cercando di attuare una progettualità rispetto alla costruzione di alloggi per la transizione abitativa. Nel frattempo i ragazzi di Libera hanno fatto un lavoro molto prezioso all'interno di questo bene confiscato, hanno rimesso in uso il giardino e hanno fatto tantissime iniziative, incontri che lo hanno reso vivibile per la città. E speriamo appunto in un finanziamento ministeriale che abbiamo chiesto per poterlo mettere in sicurezza, per poterlo ristrutturare, per poter avviare questo percorso. Quello dei beni confiscati è un tema molto complesso, molto particolare. Molto spesso i comuni si trovano ad acquisire questi beni ma non poterli immediatamente riutilizzare, perché dalla confisca al riutilizzo passano moltissimi anni. A livello, diciamo così, nazionale, secondo me andrebbe fatto, diciamo, poi ce ne parlerà anche molto meglio la professoressa Pellegrini, le pratiche per dalla confisca all'assegnazione andrebbero un attimo, a mio avviso, velocizzate. Stasera di questo tema appunto ne parleremo con Lucio Guarino, segretario generale del Comune di Partinico e direttore del Consorzio Sviluppo e Legalità, che è stato anche nostro ospite l'anno scorso, e Stefania Pellegrini, direttore del Master Gestione e Riutilizzo dei Beni e Aziende Confiscate da Mafia all'Università di Bologna, che insomma conosciamo benissimo, che porta avanti da anni un corso di laurea molto importante sul tema appunto delle mafie e antimafia, e che appunto ha avviato questo master sulla gestione e l'utilizzo dei beni. Con la professoressa Pellegrini inoltre 2 anni fa abbiamo sottoscritto insieme al Tribunale di Bologna un protocollo molto importante che verte proprio su questo tema, sul riutilizzo e sulla continuità lavorativa delle aziende confiscate. Con noi c'è anche ovviamente il nostro moderatore d'eccellenza, lo posso dire, perché ormai sono 2 anni che ci segue, che è Francesco Vignola, responsabile del Dipartimento Formazione di Avviso Pubblico, a cui lascio la parola. Grazie. Si sente? Sì. Allora, buonasera a tutti. A me 2 parole e qualche per introdurre un po' la serata. Prima di tutto, 2 parole su Avviso Pubblico. Io sono Francesco Vignoli, sono responsabile del Dipartimento di Formazione di Avviso Pubblico. Avviso Pubblico, magari alcuni che sono qua erano già qua l'anno scorso, oppure per conoscenze, insomma, sanno che tipo di realtà sia, però forse vale la pena spendere una parola, perché è partner nella costruzione di questo percorso con il Comune di Bologna ed è una realtà associativa costituita da oltre ormai 400 fra enti locali, regioni, province o città metropolitane in tutto il paese, nato nel 1996 a seguito del periodo stragista di Cosa Nostra, ed è nato sulla scia dell'impegno di alcuni amministratori locali, all'epoca erano 15, oggi sono più di 400, che già in quel periodo hanno immaginato che fosse necessario che nella loro veste di amministratori locali costituissero un nucleo di impegno per il contrasto alle mafie e alla corruzione nel nostro paese. La storia dell'associazione è la storia di un'associazione che cresce e che fondamentalmente si occupa di 2 o 3 attività. Una è l'attività di sensibilizzazione e formazione, cioè la costruzione di momenti come questi, rivolti a pubblici differenti, possono essere talvolta i ragazzi delle scuole, in molti casi sono gli amministratori stessi che ritengono di dover fare formazione, poi ci sono cittadini e stakeholder. E poi è l'altra attività, direi, significativa, è l'attività di documentazione. Se avete tempo, avete voglia, avete lo spazio, forse può valer la pena fare un giro veloce sul sito di Avviso Pubblico, in particolare alla sezione documentazione, dove negli anni si è accumulato un copioso lavoro e una corposa mole di documentazione su tutti i temi collegati al contrasto alle mafie e alla corruzione, divisi per aree tematiche. C'è l'aspetto del caporalato, c'è l'aspetto della normativa sull'anticorruzione, c'è l'aspetto, una documentazione anche in infografica sui comuni sciolti per mafia, c'è il tema di questa sera dei beni confiscati, con schede sintetiche di 3-4 righe che rimandano a schede di una paginetta e poi ai testi di legge, alle normative, ai documenti prodotti dai vari organi dello Stato. Se il tema vi interessa, secondo me lì potete trovare qualcosa di interessante. Il Comune di Bologna, come vi dicevo, è socio e Giulia Di Girolamo è la referente del Comune per Avviso Pubblico, da anni ci conosciamo, insomma, il suo impegno sul fronte sociale e amministrativo, a lei si deve la costruzione di questo momento e vi assicuro che a Sud, come a Nord, non è banale costruire questi momenti, perché io ringrazio prima di tutto voi che siete qui, non siete moltissimi, ma è normale. Ahimè è normale, su questi temi è difficile coinvolgere le persone, coinvolgere gli amministratori, la sensibilità non è ancora fortissima, ma non è solo una questione di sensibilità politico-sociale, politico-culturale, c'è ancora proprio poco il senso di quanto questi temi siano centrali nella vita del nostro Paese, e il tema dei beni confiscati è uno di questi. Vado alla presentazione, ci sono 4-5 slide. Quella che vedete è un'immagine, tratta da un film in realtà, della strage di Portella della Ginestra, 1 maggio 1947. Vado indietro, io non farò una presentazione specialistica o collegata alle norme, ai numeri, ma credo che sia importante inquadrare il tema e permettere poi a Stefania Pellegrini e a Lucio Guarino di entrare più nel merito, ne hanno le competenze, le conoscenze che io non ho. Credo che però sia importante partire da indietro nel tempo, perché la strage di Portella della Ginestra, 1 maggio 1947, è uno degli elementi chiave nella storia dell'evoluzione del nostro Paese, anche in relazione al contrasto e all'evoluzione dei fenomeni mafiosi. In quella giornata vengono uccise molte persone, contadini, molti contadini all'interno dei sindacati che manifestano per la questione agraria. Siamo nel periodo in cui si incomincia a ragionare della riforma agraria e il sud del nostro paese in particolare invece è ancora in un momento storico in cui in qualche modo l'uscita dal feudalesimo, dal modello feudale di gestione della terra non è ancora completata. Quell'ipotesi di riforma agraria, il tentativo di organizzare le masse contadine nell'occupazione delle terre, smuove interessi profondi e radicati, che sono interessi che per la prima volta forse esplicitano in modo chiaro quanto il tema delle organizzazioni criminali che c'entreranno di origine mafiosa con quella strage sia strettamente connesso al tema del potere. Una delle persone che in quegli anni combatte su questo fronte la persona che vedete in questa foto, Pio La Torre. Citato non a caso, Pio La Torre è figlio di contadini, di una famiglia poverissima, che decide di studiare incredibilmente, convince i suoi genitori anche contro la loro volontà a studiare, si forma, entra nel sindacato, diventerà segretario generale della CGIL in Regione Sicilia, entrerà nel PC, anche lì sarà segretario generale del PC in Regione, fino a diventare deputato, fino a essere un pezzo di quella commissione parlamentare antimafia, lui di minoranza, che produrrà una prima relazione molto significativa sulle mafie. Nella sua attività legata ai braccianti, legata ai MR, legata a quello che sta accadendo in Sicilia, in quegli anni due sono i focus. Il tema agrario e il tema edile, due temi centrali nella storia delle mafie e nella storia del contrasto, perché sono gli anni della riforma agraria, ma sono gli anni 60 anche gli anni del sacco di Palermo, uno degli elementi in cui nella narrazione sulle mafie si costruisce anche il passaggio dalla vecchia mafia agraria alla mafia della città. Propone una legge, che è una legge che identifica l'associazione mafiosa, e propone di confiscare i beni ai mafiosi. Il 30 aprile 1982 Pio La Torre verrà ucciso e il 13 settembre 1982 verrà promulgata la legge 646. La legge 646 è la legge che istituisce il 416 bis e quindi il reato di associazione mafiosa e la prima ipotesi di confisca e sequestro dei patrimoni alle organizzazioni criminali. Altra foto, altri personaggi, non vi racconto chi sono, tutti li conoscono. Loro saranno l'elemento in cui si scatena una seconda fase di guerra dura dello Stato alle organizzazioni criminali, anche utilizzando gli strumenti dati da quella legge. L'elemento di interesse, ed è per questo che il tema dei beni è molto legato al tema della storia mafiosa, è che Falcone e Borsellino verranno uccisi nel 92, pochi anni dopo, nel 96, verrà promulgata un'ulteriore legge, che è la legge promulgata il 7 marzo del 1996, ed è la legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, con un passaggio significativo prima assente, prima la confisca e il sequestro, e poi il riutilizzo dei beni. Anche in questo caso, come Lucio Guarino lo racconterà forse meglio di me, la legislazione è una legislazione emergenziale sull'onda di delitti importanti. Però un aspetto significativo che ci porta a quest'altra foto. Questa foto è Portella della Ginestra oggi. Portella della Ginestra oggi, dove dal 2005 sorge un agriturismo gestito dalla cooperativa Placido Rizzotto, giusto? Che è la cooperativa che è al centro di quel consorzio sviluppo e legalità che tiene insieme gran parte dei beni confiscati, una parte dei beni confiscati della provincia di Palermo nelle aree di San Giuseppe Iato, Corleone, nelle aree che hanno dato i natali a coloro che poi sono stati definiti, insomma, anche impropriamente i corleonesi. Allora, vado a chiudere con queste altre due immagini. Un altro elemento è che però questo tema, che attraversa tutta la storia della mafia e attraversa la storia del nostro paese, esattamente come le mafie, non riguarda solo Portella della Ginestra, Corleone, San Giuseppe Iato, Condofuri, Casal di Principe, ma transita e si radica nei nostri territori. Questa è un'immagine, io credo che su questo poi anche Stefania ci aiuterà, no, a comprendere un po' di più, che identifica alcuni dei dati, ce ne sono moltissimi, relativi agli immobili, perché quando parliamo di confische non parliamo solo di immobili, parliamo di beni mobili, beni finanziari, beni immobili, aziende, però da una prima immagine della dimensione dell'Emilia-Romagna, che è una terra importante da questo punto di vista, in particolare dopo il processo Emilia, sono molti beni in gestione in questa regione. Un dato che qui emerge insieme alla quantità e il tema dell'utilizzo, quello che diceva Giulia prima. C'è un problema centrale a che fare con la confisca, col riconoscimento, anche con la cultura giuridica delle procure rispetto a questo tema, e poi c'è un tema legato al cosa si fa dei beni dopo che sono stati confiscati. Allora, io su questo chiudo. Io credo che il tema sia straordinariamente interessante, che sia una questione complessa che può essere guardata da una pluralità di prospettive, perché c'è una prospettiva che è quella normativa. La norma è cambiata moltissimo dalla Rognoni La Torre ad oggi, ad ogni cambiamento si polarizzano impressioni, pensieri, giudizi sul valore di questi cambiamenti, e quindi un filone di lettura può stare sul piano normativo, un filone di lettura può stare sul piano, direi, gestionale, procedurale, cioè su tutti quei meccanismi che portano i beni, una volta individuati, confiscati, ad essere concessi a soggetti terzi per la sua gestione. Un filtro di lettura può essere quello economico: i beni hanno un valore, per questo anche si parla della vendita, i beni hanno valore economico e hanno valore forse perché sono aziende, avevano un valore quando erano aziende in mano alla criminalità. Cosa accade quando quelle aziende non possono più funzionare nel circuito illegale con tutti gli elementi di contrasto alla concorrenza che si può permettere un'organizzazione criminale? Possono essere letti sotto un profilo storico, come filtri per leggere anche come cambiano le mafie. I tipi di confische che vengono fatti oggi non sono gli stessi, ci dicono anche cosa sono oggi le organizzazioni criminali. E poi può essere letto da un fronte sicuramente sociale, socioculturale, perché la cosa interessante secondo me è che lo stato di salute della gestione dei beni confiscati, dell'intero processo, ci dice qualcosa dello stato di salute del contrasto alle mafie nel nostro paese, perché lì si gioca una partita fondamentale per noi nel recuperare beni, appunto, beni comuni, e per le organizzazioni criminali che da sempre hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per contrapporsi a questa possibilità. Falcone diceva: seguite il denaro, e lì sta una chiave anche di lettura. Allora, io chiederei, dopo questa premessa, a Stefania di aiutarci, fra tutte queste prospettive possibili, a leggere il fenomeno e a cogliere gli elementi di attualità, anche di criticità, in questa fase, sul territorio nazionale, anche con qualche focus rispetto alla regione dell'evento, senza limitarci a una sequela di dati, ma entrando più nei processi e negli elementi critici e di snodo che questa vicenda racconta. A te Stefania, grazie e buona serata a tutti. Ah, un'ultima cosa, la gestiremo così: due interventi da 20-25 minuti più o meno ciascuno, e poi a voi la parola, nel senso che ci sembrava più interessante provare a sentire anche da voi domande, curiosità, pensieri, riflessioni che ci aiutano. Se non ce ne saranno, poi noi facciamo un altro giro e vi uccidiamo per tutto il resto della sera, però proviamo a iniziare così con i primi due interventi e poi sentiamo anche dal vostro punto di vista quali sono le questioni e le domande principali. Grazie Francesco, grazie ad Avviso Pubblico dell'invito. Naturalmente mi sento un po' a casa sia in questa sala, sia con Giulia, con Francesco, con Lucio. Sono un po' stanca. Sono molto preoccupata, perché Francesco ha detto che la lotta, basandosi sulla lotta alla mafia, noi valutiamo il nostro stato di salute, e non siamo molto bene, perché noi ci lamentiamo ovviamente sempre dell'attività della criminalità organizzata e degli strumenti ovviamente che abbiamo a disposizione, che sono fragili, che non funzionano. In realtà negli ultimi tempi, negli ultimi 15 giorni, abbiamo avuto comunque degli eventi che sono eventi estremamente preoccupanti, che ci fanno capire che siamo in una fase estremamente delicata. Perché abbiamo avuto non tanto operazioni investigative che ci dimostrano esattamente che il livello del radicamento della criminalità organizzata all'interno dell'economia legale è ovviamente estremamente preoccupante. Ma quello che è accaduto è che noi abbiamo un disconoscimento dei fenomeni dal punto di vista giudiziario, e non possiamo non fare riferimento a questo, non possiamo non partire da questo, non possiamo non partire dalla Corte CEDU, che ha comunque posto dei vincoli all'ergastolo ostativo. Non possiamo partire dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto ovviamente di limitare l'importanza, la presunzione ovviamente della collaborazione di giustizia come concessione dei permessi premio ai soggetti appunto non collaboranti, affiliati e quindi accusati, 416 bis, non possiamo non ricordare la sentenza di Cassazione di Roma Capitale che ha messo praticamente senza nessun tipo di dubbio, con una sentenza tranchant, senza il rinvio, ha negato l'associazione a delinquere a Roma Capitale. Non possiamo non ricordare la sentenza dell'altro giorno della Corte d'Appello di Bologna che ha messo in discussione l'associazione mafiosa nel processo Black Monkey. Quando in realtà c'era una struttura, sia per quanto riguarda Mafia Capitale della Corte d'Appello, una sentenza con delle argomentazioni che assolutamente reggevano e che era uno strumento importante anche per riconoscere il fenomeno della criminalità organizzata in zone non tradizionali, e sicuramente l'effetto del secondo grado di Mafia Capitale ha prodotto una serie di decisioni anche sul nostro territorio. E anche per quanto riguarda Black Monkey, nel senso che il primo grado era un grado, primo grado con delle argomentazioni che reggevano, con una struttura tra l'altro non tanto, non dalle caratteristiche diciamo mimetiche come quella che poteva essere Mafia Capitale, un misto tra corruzione e intimidazione, e lì c'era proprio attività criminale per eccellenza, gestione ovviamente del gioco d'azzardo, violenza fisica, minacce, però evidentemente tutti questi elementi non sono stati sufficienti per ribadire. E non è solamente una questione, guardate, di risultanze giudiziarie. Per chi mi conosce sa che io sono una giurista, non sono una sociologa del diritto, sono una giurista, quindi parto dagli atti giudiziari, ma per me è importante verificare anche l'effetto sociale di questi atti giudiziari, e l'effetto può essere devastante, perché nel momento in cui non abbiamo riconoscimento del fenomeno abbiamo un rafforzamento di quegli stereotipi che non riconoscono le mafie nelle loro visioni non tradizionali, fondamentalmente, no? Quelli dell'intimidazione espressa. E quindi stiamo vivendo un momento molto delicato. Sta per aprirsi a Bologna l'appello del processo Emilia, e come dire, non mi nascondo la mia preoccupazione di questo momento, anche perché come giurista mi sento anche molto isolata rispetto ai colleghi in questa ondata di ipergarantismo che in realtà strumentalizzato fondamentalmente, perché nulla di più garantista delle misure di prevenzione patrimoniale, dove è un procedimento specifico di aggressione al patrimonio, e quindi dobbiamo stare molto attenti, e quindi queste iniziative, anche se ci sono poche persone, anche se ci sono due persone, è importante farle, perché dobbiamo veramente metterci nel metto, entrare in trincea anche per tutelare anche lo strumento dell'aggressione patrimoniale, perché come ha sempre detto il 41 bis anche davanti alla Corte CEDU, ha sempre retto naturalmente la misura di prevenzione patrimoniale, come ha ceduto adesso potrebbe cedere anche la misura di prevenzione patrimoniale, partire appunto dalla Corte europea. Il grosso problema qual è? Il problema è il fatto che non si fa riferimento alla particolarità del reato, che non è un reato qualunque, quindi non possiamo parlare di ergastolani ostativi comuni, non possiamo parlare di associazione delinquere comune, non possiamo parlare di beni anonimi che non hanno un pedigree criminale di questo tipo, cioè perché questi beni sono beni che sono simbolo di potere, non solamente simbolo di un'economia malata, di un'economia contaminata, non sono solamente simbolo della presenza della criminalità organizzata su un territorio, ma sono simbolo di un potere, sono simbolo di una strategia di estensione territoriale. Non amo il concetto colonizzazione, come forse qualcuno sa, perché la colonizzazione fa riferimento sempre ad un atteggiamento, diciamo, di passività da parte di chi viene colonizzato. Noi non siamo stati passivi, nel senso che noi abbiamo assolutamente avuto un ruolo determinante nell'aprire le porte della nostra economia, soprattutto ai finanziamenti che provenivano dalla criminalità organizzata e ovviamente da attività criminali. Quindi io parlo più di una simbiosi mutualistica tra attività criminale e attività economica criminale. Scusate questo piccolo preambolo, questo, come dire, questo urlo di dolore, ma era dovuto, nel senso che mi sono riproposta che in qualsiasi luogo in cui andrò nei prossimi mesi non potrò introdurre qualsiasi mio argomento se non manifestando la mia preoccupazione rispetto a questo momento, anche proprio perché, ribadisco, mi sento abbastanza isolata dal punto di vista dell'accademia da questo punto, con questa prospettiva. È vero, l'argomento dei beni, dell'aggressione patrimoniale è molto complessa, ma in realtà noi abbiamo tutti gli strumenti per poterla fare funzionare. Anche da questo punto di vista, dopo anni che mi occupo del tema, è un po' come ormai è la mia il mio tormento e la mia passione allo stesso tempo, dico sempre che le mie ceneri dovranno comunque essere distribuite su un bene confiscato, almeno questo mi deve essere dato. Però gli strumenti li abbiamo, cioè noi abbiamo una legge che è una legge eccezionale, che ha avuto questi padri, e il master che dirigo da 7 anni è proprio dedicato a Pio La Torre. Questa legge poi è stata rinnovata costantemente. Forse il fascino rispetto a questa normativa, proprio per la mia natura di sociologo del diritto, che ama il diritto vivente, il diritto che pulsa, è proprio il fatto che questa è una normativa in continuo cambiamento. Questo è un problema, perché bisogna continuamente essere aggiornati, e non è sempre facile, perché comunque è un aggiornamento non solo normativo, ma è soprattutto un aggiornamento giurisprudenziale. Però alla fine il quadro è un quadro francamente che non può che trovare ottimista rispetto alla struttura, soprattutto per quanto riguarda l'ultima riforma, la riforma appunto del 2017, che ha reso norma le buone pratiche che venivano utilizzate proprio in tanti tribunali, soprattutto del Sud, perché da questo punto di vista, purtroppo per fortuna, il Sud ha un'esperienza, ma che ha capitalizzato e quindi in realtà ha sperimentato anche nella prassi, e Lucio ne è una testimonianza, delle pratiche che sono pratiche decisamente virtuose. E proprio dall'esperienza del Sud provengono le riforme all'interno del codice più interessanti e più efficaci. Sul territorio emiliano-romagnolo abbiamo una quantità di beni considerevole. Ovviamente dobbiamo stare molto attenti, e in questo sicuramente la stampa ha una grossa responsabilità, in primis perché non ne parla, e quando ne parla male. Perché non si possono confondere, poi questo sai Giulia, è un po' il mio crutto, non si possono confondere i sequestri con le confische, perché sono comunque fasi diverse, e soprattutto non si possono confondere i dati del subalterni con i dati degli immobili, no? A volte abbiamo quando si arriva ad un sequestro si vanno a sequestrare i subalterni di una struttura immobiliare, non l'immobile. Quindi per far riuscire a dare l'idea della quantificazione degli immobili è necessario ricostruire i subalterni di un immobile e verificare esattamente quanti sono gli immobili. Per dire, in Emilia Romagna attualmente ci sono 712 subalterni, ma confiscati in via definitiva, o comunque primo grado, ma soprattutto sono definitiva, ma sono 159 beni immobili, quindi il dato è leggermente diverso, 712 a 159, quindi non è che Paolo Borsellino diceva sempre parlatene, comunque è importante parlarne, purtroppo non è più importante solo parlarne, ma è importante parlarne con cognizione di causa, perché purtroppo adesso troppe persone ne parlano e molte ne parlano con non sapendo esattamente qual è non conoscendo la materia, che è una materia molto complessa, e voi capite che confondere 712 subalterni con 159 beni immobili è, cioè, sono parametri leggermente diversi. Io non sono un architetto né un, però il subalterno fondamentalmente è una quota dell'immobile, fondamentalmente un immobile potrebbe essere costituito da quattro subalterni, ecco, fondamentalmente, quindi bisogna ricostruire a livello, non è che ogni subalterno corrisponde ad un immobile, che è una casa, un terreno. Un immobile potrebbe essere diviso a seconda, poi non c'è una regola, ma i piani o quant'altro, in diversi subalterni. Quindi il lavoro che noi facciamo anche come master è quello proprio della mappatura dei beni immobili confiscati in Emilia Romagna, ed è il lavoro che appunto viene fatto da architetti ed ingegneri, che sono già architetti e ingegneri che si formano al master, quindi hanno una doppia formazione, che fanno questo lavoro proprio anche di accesso agli atti del catasto, del demanio, per ricostruire, no, l'immobile, perché a volte non so, capitava che ci fosse un bene immobile che non si riusciva a trovare, è una mappatura recentissima in realtà, perché loro fanno anche ovviamente dei sopralluoghi. Questo bene immobile in provincia di Piacenza non si riusciva a ricollocare, alla fine era la cabina dell'Enel ed era praticamente registrato come bene immobile. Voi capite che quel bene immobile, una cabina dell'Enel, è inutilizzabile, quindi bisogna andare anche a studiare, analizzare, a vedere sul territorio esattamente che cosa sono questi beni immobili, è fondamentale. Quindi partiamo dall'analisi critica e dall'analisi delle fonti. Mi raccomando, quando avete necessità di verificare la situazione dei beni immobili, la quantificazione dei beni immobili, state molto attenti rispetto alla fonte, perché è fondamentale per quanto riguarda i beni immobili, quindi ancora di più per quanto riguarda le aziende, no? Perché se noi andiamo a vedere il dato dei sequestri delle aziende in Emilia Romagna per quanto riguarda anche il processo Emilia, abbiamo una quantità di sequestri impressionante, ma sequestri di aziende, ma sono sequestri di ragioni sociali di aziende, perché quelli non sono aziende. Quelle sono aziende fittizie che sono state create fondamentalmente per procurare falsa documentazione, necessaria ovviamente al riciclaggio e alla falsa fatturazione per operazioni inesistenti, che sono ovviamente i reati più diffusi e per i quali sono stati ovviamente emesse più incriminazioni nel processo Emilia. Ma quelle non sono aziende. È ovvio che a livello processuale risulterà quella ragione sociale, ma quella ragione sociale corrisponde a un uguale nulla. Quindi anche quello, perché è importante un'analisi accurata anche rispetto al numero delle aziende. Io qualche anno fa, 2 anni fa, ho fatto parte proprio di un progetto europeo e il mio compito era quello di mappare le aziende confiscate a livello nazionale. Quello che diceva Francesco è fondamentale, non è tanto il dato, perché poi il dato va visto in quella prospettiva, cioè per andare a vedere il dato reale delle aziende confiscate bisogna andare a vedere se erano aziende attive, quindi non fittizie, quello non tanto il dato processuale, perché il dato processuale ovviamente può finire in nulla. Quindi il dato in sé è importante e va quantificato appunto con delle fonti che sono fonti scientifiche, ma è importante verificare esattamente la tipologia dell'azienda, il settore, perché l'analisi delle aziende sequestrate ci fa capire dove investe la criminalità organizzata, no? E quindi capire se ci sono tradizionalmente i settori che sono settori più esposti, che sono il commercio, che sono il movimento terra, l'edilizia, oppure se ci sono settori nuovi. E quello che è emerso ed emerge è esattamente questo, che in determinate regioni ci sono settori diversi che corrispondono esattamente all'economia di quella regione. Voi direte è una banalità. Non è una banalità. Non è una banalità perché tradizionalmente gli studi sociologici sulla criminalità organizzata hanno sempre sostenuto che gli investimenti vengono fatti in quei determinati settori. Non è più vero. Non è più vero perché c'è un investimento anche in altri settori, che sono settori che fanno riferimento ad esempio l'attività a servizio delle aziende, no? Nella sanità. Ci sono comunque una nuova dimensione di investimento e anche la tipologia di azienda è fondamentale, proprio per una questione proprio di facilità di costituzione dell'azienda. Si è sempre detto che le aziende sequestrate, le aziende comunque mafiose, erano SRL. Ecco, se noi andiamo al nord, noi vediamo che ci sono un sacco di quote di SPA, di società per azioni. E che cosa ci fa capire questo? Ci fa capire che in realtà al nord non ci sono solo o soprattutto e sono una minoranza aziende mafiose, cioè aziende create da mafiosi. Vuol dire che al nord noi abbiamo aziende a partecipazione mafiosa. Vuol dire che i mafiosi si sono acquistati parte delle quote delle aziende, il che vuol dire che noi abbiamo imprenditori che hanno ceduto quote delle proprie aziende. Vi sembra un dato secondario questo? Partendo dal dato quantitativo, cioè partendo dai numeri, come diceva Francesco, non bisogna dare dei numeri, o dare dei numeri, insomma, metaforicamente li potremmo anche, c'è chi li sta dando sì, fondamentalmente anche ai livelli dei nostri vertici, però che cosa nasconde un numero? Cioè, perché è importante far parlare i numeri? Perché i numeri in sé sono elementi fondamentali. Che cosa dirvi? Che per quanto riguarda l'aggressione patrimoniale dei beni, dei capitali, a parte il fatto che un dato, noi l'anno scorso abbiamo cambiato il nome del master, adesso il master è master in gestione e riutilizzo di beni sequestrati e confiscati, punto, più la torre. Cosa è cambiato rispetto alla titolazione precedente? Sono cambiati 2 elementi. Il primo, che abbiamo introdotto sequestrati. Secondo, che abbiamo tolto alla criminalità organizzata, perché lo strumento della missione patrimoniale, proprio anche grazie alla riforma del 2017 e comunque grazie, ribadisco, a una giurisprudenza estremamente attiva, viene esteso sempre di più a tanti altri reati che non sono il reato della criminalità organizzata, quindi non sono solo reati di 416 bis, ma ci sono tanti altri reati per i quali appunto si interviene con l'aggressione patrimoniale. E quindi è uno strumento che proprio per l'efficacia, ed è proprio perché è efficace che dobbiamo stare attenti, e che viene sistematicamente aggredito, e finora, ribadisco, ha tenuto, ma bisogna stare molto attenti, proprio per la sua efficacia è stato esteso anche ad altri reati. Però cosa vuol dire beni? I beni sono diversi, ci sono diverse tipologie di beni, perché ci sono beni mobili, beni immobili e beni aziendali. E in realtà stiamo trattando di universi, mondi completamente diversi gli uni dagli altri, e quindi hanno anche modalità di gestione e modalità di destinazione completamente diversi. Ora, quello che diceva Giulia è drammaticamente vero, nel senso che comunque ci sono tempi lunghi rispetto alla confisca definitiva, però è anche vero che con la riforma del 2017 si può comunque arrivare ad un'assegnazione temporanea a partire dal sequestro, cioè nel momento immediato dell'ablazione. Questo ad esempio è una delle grandi conquiste della normativa e della riforma del codice antimafia, che è esattamente quello che vi dicevo prima, cioè una pratica che veniva esercitata nei tribunali del Sud, dove il presidente della sezione di misure di prevenzione si assumeva la responsabilità di assegnare temporaneamente un bene immobile attraverso strumenti dei protocolli di cui parlava Giulia, senza una tutela normativa. L'efficacia è proprio la necessità di intervenire in una fase immediatamente successiva alla posizione del sigillo ha portato il legislatore a normativizzare questa previsione, e quindi adesso è possibile l'assegnazione temporanea che è prevista appunto dall'articolo 4 del codice antimafia. C'è quindi la possibilità di locare, di concedere incomodato i beni immobili proprio dal momento del sequestro, naturalmente intervenendo con più risolutezza anche a liberare l'immobile, perché il problema è anche la questione di liberare gli immobili che sono occupati. Ma andiamo io devo capire anche quanto tempo ho, perché datemi i tempi. 10. 15. No, perché questo dovrebbe essere, cioè questa è stata l'introduzione. No, allora, velocemente, è importante capire un pochino degli immobili, poi facciamo un secondo giro, infatti. Perché poi dopo io vi chiedo già come secondo giro intervenire sulla questione della vendita, dato che sicuramente anche Luce lo tratterà, poi siamo sicuramente in linea rispetto al trattare in modo, narrarlo in modo corretto. Adesso ho anche questa fissa della narrazione corretta dei fenomeni delle mafie, no? Perché narrare le fame è fondamentale, cioè scardinare gli stereotipi, perché appunto se ne parla, forse se ne parla troppo, ma bisogna parlarne bene. I beni mobili sono di diversa natura, ci sono le autovetture, ci sono i natanti, c'è il denaro, ci sono i beni mobili che sono all'interno delle aziende, oppure ci sono i beni mobili che vengono trovati all'interno dei beni mobili, no? All'interno delle case vengono trovati questi beni mobili. Ora, hanno ovviamente, il bene mobile ha una un percorso molto molto particolare, perché le autovetture i natanti vengono o assegnati o vengono venduti o vengono demoliti, possono essere assegnati anche all'amministrazione territoriale, possono essere trattenuti anche allo Stato, pensiamo appunto alle autovetture, o pensiamo ad esempio anche ai motoscafi, ai natanti che vengono proprio date anche alle capitanerie di porto, oppure vengono venduti. Nel caso in cui ci sia una antieconomicità vengono demoliti. Il denaro viene versato in un fondo unico giustizia, e qua potremmo iniziare a parlare per giorni sul fondo unico giustizia. Un fondo unico giustizia che è questo sconosciuto, nel senso che ha una quantificazione, io l'ho calcolata proprio nell'ultimo dato del 2018, nel 30 dicembre del 2018, stiamo parlando di 4,9 miliardi di euro. Che voi dite, caspita, sono tanti, poi ci si lamenta sempre del fatto che non abbiamo fondi. Il fondo di cogiustizia in realtà è un fondo che viene destinato per la a questo fondo fa capo anche il fondo per le vittime del racket, per la tutela delle vittime della criminalità organizzata, ma dato che proviene in grande parte dai beni che vengono sequestrati, molto spesso è stato chiesto, caspita, allora una percentuale di questo fondo, dato che stiamo parlando di 5 miliardi di euro, destiniamolo direttamente, dato che sicuramente Lucio l'ha vissuto sulla sua pelle, il grosso problema sia dei beni immobili che delle aziende è la necessità di capitale per far funzionare, per restaurare beni immobili, oppure per far funzionare le aziende. Nulla, nel senso che comunque non è stato previsto insomma una percentuale minima nella riforma, poi vi dirò, del 2018, nel cosiddetto decreto sicurezza. Qual è la motivazione? Per ragioni prudenziali, perché in questo fondo confluiscono il denaro, i titoli anche sequestrati, e il sequestro, come potete immaginare, è la prima fase ed è una fase temporanea, non è la confisca definitiva. Con la confisca definitiva il bene passa nel patrimonio disponibile dello Stato, col sequestro è semplicemente il denaro che viene congelato, no? Però deve fare il percorso proprio per arrivare alla confisca definitiva. Quindi a livello prudenziale ci dicono, non è che possiamo destinare del denaro che è temporaneamente sequestrato. Il fatto è che questo è un fondo che continua a aumentare giorno per giorno, perché ogni giorno ci sono comunque soprattutto conti correnti che vengono sequestrati. Quindi in realtà, come dire, è una argomentazione che non regge, perché comunque in ogni caso, anche se dovessero essere dissequestrati, il capitale è talmente ampio che ci sarebbe comunque il margine della restituzione. Probabilmente la motivazione, poi non è che bisogna sempre pensare male, è il fatto che questo viene considerato un po' un tesoretto, nel senso che per le emergenze proprio a livello nazionale, penso che stanno sempre, quindi non si vuole toccare, perché è un fondo che probabilmente deve essere disponibile a livello proprio di interministeriale. Quindi tutto il denaro, quindi sia il denaro che viene sequestrato o i titoli o il denaro che proviene dalle vendite, confluisce in questo fondo unico giustizia. Poi ci sono i beni mobili aziendali, nel momento in cui all'interno di un'azienda ci sono dei beni mobili, i camion, che non sono utili al proseguimento aziendale, questi beni possono essere dati in affidamento già appunto dal sequestro. Questo è un dato molto, molto interessante che però deve essere reso efficace, perché io appunto sono un docente universitario, dirigo un master di secondo livello, ricevo telefonate dagli amici di aziende sequestrate che mi dicono: scusami Stefania, non è che mi puoi procurare una betoniera? No, io betoniere non saprei dove andare a prendere fondamentalmente la betoniera. Amici palermitani, però le aziende del calcestruzzo, perché in Sicilia le aziende del calcestruzzo si dividono in due categorie, quelle dello Stato e quelle dei mafiosi. Terzo non dato, non c'è un terzo elemento. E quindi, come dire, è fallito il progetto ovviamente di creare una rete tra le aziende e il calcestruzzo, era il calcestruzzo della legalità nel quale tutti credevamo, creare una rete tra le aziende del calcestruzzo sequestrate e confiscate, proprio per uno scambio anche sia del personale sia dei beni immobili, ma appunto non ha funzionato perché ovviamente creava un livello di competitività altissimo rispetto agli altri, che sono esattamente gli altri in tutti i sensi. E a volte queste aziende che vengono sequestrate hanno necessità anche di utilizzare dei mezzi, di rinnovare i mezzi, e non hanno i fondi, perché comunque anche il fondo che viene destinato, che è stato questo fondo di garanzia creato dal codice 2017, si tratta ovviamente di un fondo abbastanza esiguo, e soprattutto la procedura per accedervi è molto complessa. Quindi anche una betoniera può essere un elemento fondamentale per un'azienda di calcestruzzo per andare avanti, per rimanere sul mercato, per essere competitivi. E potrà sembrare una domanda assurda, ma è una domanda interessante, e paradossalmente l'hanno fatta la persona giusta, perché io comunque attraverso il master sono in collegamento con tutta una serie di amministratori giudiziari e mi ha chiesto: non è che tu, la domanda corretta doveva essere, ma non è che conosci qualche amministratore giudiziario che sta amministrando un'azienda di calcestruzzo che ha una betoniera? Poi, cioè, la domanda è stata: non è che hai una betoniera a disposizione da concederci? Di esprimersi ai siciliani. È una cosa molto sintetica, però sì. La domanda aveva un senso effettivamente, perché il problema è un problema reale. Poi ci sono i beni, e questa è una novità rispetto al codice antimafia, ci sono i beni mobili di terzi in immobili confiscati, no? All'interno dei immobili di confisca ci possono essere dei beni immobili che appartengono a altri soggetti, o vengono ritirati dai proprietari, cioè vengono avvisati i proprietari dicendo che ci sono questi beni mobili che devono essere ritirati, oppure vengono assegnati, oppure vengono direttamente venduti. Per quanto riguarda, poi io mi fermerei alle aziende magari poi ritorno con i beni immobili alla fine, perché è l'elemento più interessante, probabilmente il bene immobile anche per il ruolo dell'ente locale. Per quanto riguarda l'azienda, io ritengo che la gestione dell'azienda è quello che si può considerare veramente una sfida collettiva. Una sfida collettiva perché l'intervento sull'azienda deve essere un intervento immediato, perché l'azienda è comunque un bene che pulsa, che vive, che non può essere fermato con il sigillo. L'azienda è per sua natura dinamica, e per gestire un'azienda sono necessarie competenze multidisciplinari da parte proprio di chi deve riportare a nuova vita. Per quanto riguarda le aziende non si parla di riutilizzo, ma si parla di riorganizzazione aziendale. E anche questo il codice, il nuovo codice antimafia ha previsto il fatto che il giudice delegato possa dare più incarichi a più soggetti. Perché l'amministratore unico molto spesso non è in grado di gestire aziende complesse, perché molto spesso l'amministratore giudiziario, se è un commercialista, non ha le competenze giuridiche necessarie per gestire ad esempio tutta la questione della trattativa diciamo giuslavoristica con i datori di lavoro, tutte le questioni ovviamente fallimentari, tutte le questioni che riguardano magari anche le questioni di carattere penalistico legate ai reati del preposto. Ci sono tutte questioni giuridiche che i commercialisti non sono in grado di fare, come non sarebbero in grado di fare gli avvocati l'analisi dei libri contabili. Quindi non è che non ci può essere un unico amministratore, ma deve esserci, e questo in 7 anni di master è un elemento fondamentale, un pool diciamo di amministrazione, ed è fondamentale anche il fatto del coinvolgimento di alte professionalità, perché l'azienda deve essere ricollocata sul mercato e quindi ci deve essere anche un soggetto che è in grado a livello manageriale di riproporre delle nuove soluzioni, perché l'azienda deve conoscere il mercato e deve riproporsi sul mercato, perché un'azienda che prima era incanalata su un mercato che era falsato, perché era il mercato della criminalità organizzata, seppure svolgesse attività legale, ma era un mercato diciamo dopato, era un mercato nel quale la criminalità organizzata forniva i clienti, indicava i fornitori, indicava la materia prima. Nel momento in cui la criminalità organizzata esce dall'azienda, l'amministratore si trova con un'azienda che è completamente sbalzata fuori dal mercato. A volte si dice, si paragona l'azienda sequestrata ad una start-up, no, che deve iniziare. Non c'è nulla di più sbagliato che paragonare una start-up, perché la start-up parte da zero, cioè le aziende sequestrate e confiscate partono da meno 100, cioè devono recuperare comunque del terreno, cioè partono da sotto il livello del mare. E uno degli elementi, qui chiudo, di grossa difficoltà, dato che facciamo riferimento ovviamente agli enti locali, è proprio la, io l'ho chiamato una forma di attività legalitaria da parte degli enti locali, che improvvisamente si rendono conto della necessità di rendere efficiente, di legalizzare tutte le autorizzazioni. Questo è un elemento molto importante, perché autorizzazioni e conformità degli impianti e agibilità dei locali che non sono mai state richieste prima del sequestro, venivano richieste nell'immediatezza del sequestro. Quindi l'amministratore si trovava a dover o ripristinare nell'immediatezza la regolarità, ed era agli enti locali in determinati contesti, soprattutto, che sollecitavano in questo accanimento legalitario, oppure l'azienda chiudeva. In questo caso, per farvi capire che gli strumenti ci sono, l'articolo 35 bis del codice del codice antimafia, è una riforma, una norma nuova, permette proprio che per un periodo di 6 mesi dalla notifica dell'accertamento della mancanza di conformità, cioè è sospesa l'erogazione delle sanzioni, e entro lo stesso tempo l'amministratore deve presentare alla pubblica amministrazione un'istanza proprio finalizzata a una sanatoria delle violazioni che sono eventualmente riscontrate. Questo è un elemento importante, ma non è al di là della previsione normativa è importante anche la presa di assunzione, l'assunzione di responsabilità da parte dell'ente locale, che deve capire e comprendere che non si deve accanire sull'azienda, perché altrimenti c'è una, come dire, è una compartecipazione di responsabilità. È ovvio che l'azienda deve essere messa in regola e su questo non si transige, ma diamo il tempo all'amministratore di mettere in regola queste aziende, anche perché, ribadisco, stiamo parlando di permessi che non sono mai stati richiesti prima, perché l'ASL e gli enti locali erano completamente assenti nel controllo di quelle aziende nella fase precedente. Improvvisamente diventano particolarmente efficienti nella richiesta, appunto, della messa in legalità. Io mi fermerei qui per questo primo giro, poi eventualmente ritorno sul discorso della gestione e destinazione dei beni immobili e del problema, appunto, della vendita, che ha dato tanto scalpore, ma anche lì bisogna beni immobili, stai dicendo, perché si può parlare del ruolo degli enti locali, faccio un rapido cenno, più altri concetti, che dice? Va bene, se a questo punto invece di immaginare proprio i due interventi, Stefania, prende ancora qualche minuto, facciamo i due interventi e poi chiudiamo con voi. Benissimo. Ok. Spietatissimo. A me va bene, allora non so, cioè spietatissimo. Allora, parliamo dei nostri beni immobili, perché ovviamente per quanto riguarda il bene immobile il ruolo dell'ente locale è fondamentale. È fondamentale proprio perché deve essere un ruolo attivo. Sono in un momento di preoccupazione e fondamentalmente è un momento anche di particolare livello, il mio livello di cinismo è aumentato, però dobbiamo anche capire e parlare di responsabilità. Parliamo di responsabilità, non parliamo del fatto che i tempi della giustizia sono lunghi, parliamo anche di cosa non fanno gli enti locali. Parliamo del fatto che il 30% dei beni immobili a livello nazionale, per il 30% dei beni immobili non viene presentata nessuna dichiarazione di interesse. Rimangono lì, il 30%. Quindi stiamo parlando di una quantità di un certo rilievo, il 30%. Perché questi beni non vengono richiesti? Per tanti motivi, per impreparazione o scarsa capacità progettuale degli enti territoriali. Noi da anni svolgiamo un'attività, lei è l'esempio del contrario, è l'eccezione che conferma la regola. In preparazione, ma poi non c'entra, perché io sto parlando di personale tecnico. Sto parlando di personale tecnico perché presentare una domanda di interesse è una questione di tecnicismo. E bisogna essere preparati per formulare un progetto di riutilizzo di un bene. Non è una cosa che si improvvisa. E quindi mi capita molto spesso di parlare con gli enti, per dire, cioè, nel senso che proprio venerdì sono stato in commissione parlamentare antimafia per parlare proprio di questo, ed è un elemento fondamentale questo, cioè l'elemento della mancanza di preparazione. Ma non è colpa del personale amministrativo, ma è un problema anche della volontà politica di investire sulla preparazione del personale amministrativo, perché nel momento in cui gli enti locali non hanno finanziamenti da investire sulla formazione, il povero amministratore locale di turno Nel momento in cui viene segnalato un bene sul proprio territorio, se ne guarda bene, ce lo vive come una iattura, non come una risorsa, perché noi andiamo in giro a dire più dell'Italia, i beni, no, beni immobili, no, una risorsa, un bene comune, ma la realtà qual è? La realtà è che è esattamente l'opposto, cioè che il bene immobile sul proprio territorio viene visto come una iattura, caspita, e adesso cosa facciamo? Facciamo finta di niente. Poi c'è la sfortuna che c'è la mappatura che va a dire no scusate guardate che sul suo territorio cioè, sarebbe un bene confiscato in definitiva, cioè perché non chiedete riutilizzo? Beh, come si fa? Questo è un elemento importante, c'è una scarsa sensibilità, abbiamo partecipato insieme Giulia alla conferenza dei servizi che si è tenuta in prefettura l'anno scorso mi sembra, e questo strumento, perché l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati, che è questo ente che ha avrebbe il compito di coordinare un pochino la destinazione dei beni, devo dire che ha sviluppato degli strumenti estremamente efficaci dal punto di vista anche informatico, come appunto la conferenza dei servizi, cioè l'Agenzia manda in via a tutti gli enti locali le informazioni rispetto ai beni immobili che sono sul loro territorio, dicendo ci sono questi beni immobili, manifestate il vostro interesse alla richiesta di assegnazione. E signori, in Emilia Romagna ci sono stati beni immobili in perfette condizioni che non sono stati richiesti. Per quale motivo? Per quale motivo? Allora, noi non diciamo che le norme non funzionano, diciamo che non c'è una volontà politica di fare in modo che questi beni ritornino ad essere beni comuni. L'assessore Mezzetti si è pure arrabbiato, perché siamo in una regione nella quale ci sono dei fondi che sono destinati per il riutilizzo dei beni immobili, questi fondi non vengono richiesti, Giulia lo sai perfettamente. Allora di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Se non dobbiamo parlare di responsabilità, certo che in alcune zone c'è una saturazione di beni immobili, nel senso che ci sono talmente tanti che l'ente locale fa fatica ovviamente a dover, ma non è sicuramente il nostro caso, a volte c'è una antieconomicità di alcuni cespiti, oppure c'è una eccessiva onerosità. Ma vi assicuro, io insomma, mi è capitato, la caratteristica di questo master è che non si occupa solo della gestione ma si occupa anche del riutilizzo, e quindi nella terza fase dell'utilizzo noi diamo degli strumenti anche a livello, indichiamo quali possono essere gli strumenti economici per andare a individuare i capitali, i fondi per la gestione del bene. Però l'amministratore, il tecnico, l'amministratore locale non può pensare di trovare all'interno del bilancio comunale il quantum per riqualificare il bene immobile. Deve ovviamente farsi parte attiva per cercare questi fondi, certo che poi il Ministero gli deve assegnare questi fondi, perché se poi dopo il Ministero non li blocca, ma i fondi esistono, qual è il problema? Ci sono anche fondazioni che in realtà la Fondazione per il Sud è una fondazione che unisce ovviamente istituti di credito che hanno questa progettualità, che assegnano una quota, no, per questa finalità. Però la Fondazione per il Sud ce lo dice chiaramente, nel senso noi bandiamo dei finanziamenti che a volte vanno deserti. Perché vanno deserti? Perché questi sono soggetti che vogliono investire, e nel momento in cui un progetto è un progetto che non sta in piedi, è un progetto che non porta ovviamente all'autosostentamento nel bene, perché l'investitore può investire nell'immediatezza, ma poi il bene deve autogestirsi, deve autosostentarsi. Perché finalità sociale non vuol dire necessariamente che non produce reddito, chi l'ha detto? l'economia sociale non è un'economia a quota zero, è un'economia che ha una determinata caratteristica e ha determinate finalità, ma produce una ricchezza, deve produrre una ricchezza, e per fare progetti di riutilizzo bisogna saperli fare, perché la legge lo prevede specificatamente. I beni possono velocemente possono essere mantenuti nel patrimonio dello Stato, quindi trattenuti dallo Stato per delle caserme, per ad esempio per la protezione civile, per le scuole. Questa norma, piccola norma, fa riferimento al fatto che la stessa agenzia può chiedere di trattenere presso di sé dei beni immobili come forma di autofinanziamento. Possono essere trasferiti al patrimonio dell'ente territoriale, che li può utilizzare per fini istituzionali, sociali o economici. Cioè, il bene territoriale può anche utilizzare fini economici, cioè li può anche affittare se non riesce a utilizzarli direttamente. È ovvio che c'è un vincolo del reimpiego dei proventi per finalità sociali. Naturalmente io posso affittare anche quel bene immobile, ma il provento lo devo far rientrare alla finalità sociale. Una volta che il bene immobile è trasferito presso l'ente territoriale, l'ente territoriale lo può utilizzare direttamente anche mediante consorzi, no? Il pubblico si fa anche promotrice proprio di questi consorzi o di associazioni di comuni, no? Per la gestione di questi beni, oppure in diretto, con una procedura di evidenza pubblica, ad uno dei soggetti fondamentalmente del terzo settore che vengono specificatamente elencati dal codice. Altro elemento importante che viene previsto dalla riforma del 2017, ci può essere l'assegnazione diretta agli enti e alle associazioni, cioè non necessariamente il passaggio ente territoriale a gara pubblica partecipano le associazioni, ma le associazioni possono fare richiesta diretta all'agenzia. È ovvio che devono, è un terzo settore che deve avere determinate caratteristiche, nel senso che deve avere tutti i requisiti necessari di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, perché devono dimostrare di essere in grado di gestire questi beni. I progetti, ribadisco, adesso qui non abbiamo il tempo di specificare, ma i progetti devono avere determinate caratteristiche perché il bene venga destinato. Altro elemento è l'elemento ovviamente più interessante, che è la questione ovviamente della vendita. Però qui va... quindi fermo, va sottolineato un elemento molto importante, che la vendita è comunque un elemento che viene considerato solamente nel caso in cui il bene non venga destinato. È stata un po' demonizzata la vendita del bene immobile. In realtà la vendita è sempre stata prevista dal 2011, perché i beni vengono venduti, sono sempre stati venduti sia per risarcimento delle vittime dei reati, sia per il soddisfacimento dei creditori in buona fede. Cioè è sempre stata prevista la vendita. L'unica cosa è che adesso la vendita viene prevista anche nel caso in cui non sia stato possibile la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse. Quindi la vendita è in via residuale. Cioè, cosa vuol dire? E qui chiudo l'ottimismo e il sapore della vita. Che noi non dobbiamo demonizzare la vendita. Perché se un bene viene venduto è perché il bene non viene richiesto dall'ente locale. è perché la comunità e la collettività non si è assunta la responsabilità di richiedere questo bene immobile. E allora viene venduto. Allora, se viene venduto con determinate caratteristiche, con determinate procedure, non è la colpa di chi prevede la vendita, ma è la colpa di chi non chiede l'assegnazione. Il problema sicuramente è un problema che fa riferimento al fatto che cadono le garanzie che erano previste prima, perché anche prima era prevista come extrema ratio, ma era una vendita solamente a comunque determinate categorie. Adesso la vendita è il miglior offerente, questo è l'elemento. Ma di fatto la norma era rimasta inapplicata, perché quelle categorie non l'avrebbero mai richiesto. Esattamente, nel senso che comunque la questione è la vendita al miglior offerente, e ci sono delle garanzie che vengono richieste, c'è cioè una prelazione per determinati soggetti che sono le cooperative costituite dal personale di forze armate, le associazioni di categoria, le fondazioni bancarie, gli enti territoriali. C'è l'esclusione di determinati soggetti, ovviamente il proposto, il proprietario del bene nel momento in cui deve adottare misura penale, i condannati, i coniugi, i parenti, c'è l'acquisizione della informazione antimafia nel caso di vendita, c'è il divieto di alienazione per i 5 anni, c'è sempre lo strumento della revoca della vendita nel caso in cui, perché c'è un monitoraggio naturalmente per tutti gli anni successivi, c'è una revoca del provvedimento nel caso in cui ci si renda conto che il bene è ritornato nella disponibilità della comunità organizzata. Quindi riportiamo alla narrazione corretta del fenomeno e riportiamo proprio all'elemento di responsabilizzazione. Io insegno giurisprudenza, ho studiato giurisprudenza, ho sempre vissuto all'interno di giurisprudenza, si parla sempre troppo di diritti, iniziamo a parlare di doveri, perché è esattamente l'altra dimensione fondamentale. Non esistono doveri se non ci sono diritti. C'era un dei fondatori della sociologia, che è Auguste Comte, che diceva esattamente questo, no? Era uno dei principi fondamentali, che non esistono i diritti soggettivi propriamente detti, ma esistono i doveri di tutti nei confronti degli altri. Ora, analizzandolo in questa prospettiva, ovviamente il rapporto etico diventa primario rispetto al rapporto del diritto. Quindi noi abbiamo dei doveri nei confronti di tutti gli altri, non abbiamo dei diritti soggettivi. Alla fine non cambia nulla nella sostanza, ma cambia l'assunzione di responsabilità di ognuno di noi. Grazie. Grazie Stefania. Io prendo due parole di tutta la mole di un intervento estremamente ricco, però ne prendo due che colgo dalla mia prospettiva come particolarmente significative: multidimensionalità e responsabilità. Stefania ha usato il termine multidimensionalità quando parlava delle competenze necessarie a gestire un'azienda confiscata, e mi sembra estremamente interessante perché rende conto anche di che cosa parliamo, perché per gestire un'azienda, anche prima della confisca, da parte dell'organizzazione criminale, se è un'azienda che ha un luogo fisico, per esempio un ristorante, un albergo, che è anche stato costruito, significa aver bisogno di una multidimensionalità di competenze. Ho bisogno dell'ingegnere, ho bisogno dell'architetto, ho bisogno del commercialista, ho bisogno del notaio per fare degli atti, del consulente del lavoro, ho bisogno di qualcuno che si interfacci con me per tutto il tema concessorio che fanno gli enti pubblici. Questo specifica la quantità di relazioni che le organizzazioni criminali hanno su un territorio, ed è questo uno degli elementi che ne costruisce quella specificità che non si può perdere quando, come alcune delle ultime letture sembrano far emergere, quando si parla di mafie e non le si mette accanto a altri tipi di criminalità. E questo vale per tutti i territori, perché la relazione con il territorio e con i soggetti del territorio e con lo Stato è consustanziale. E da sempre. D'altra parte lo stesso Pilator, da prima c'è una citazione sua famosa che io adesso non ricordo a memoria, che sottolineava la capacità di avere relazioni con lo Stato e con i soggetti del territorio. Ma non è una specificità siciliana o calabrese. Le mafie sono questa cosa qua. E uno, non là, però è uno degli elementi di grande diversità rispetto a piccole o diverse organizzazioni criminali. E questo è uno degli elementi che dobbiamo imparare a leggere su questi territori. Per questo la colonizzazione funziona fino a un certo punto. Il radicamento, l'infiltrazione, poi i termini cambiano, cambia la letteratura. Per fortuna anche in chi studia questi fenomeni non c'è un assoluto accordo. Vi accorgerete se leggete, sentite che ci sono pareri e opinioni diverse, perché l'altro termine che ha usato Stefania è mutazione della norma, perché muta il fenomeno. E dobbiamo dotarci costantemente di strumenti per leggere. Questo secondo me è un elemento centrale nel guardare ai fenomeni mafiosi e ai beni. Il secondo è responsabilità. Il tema della responsabilità è centrale. Io non ne faccio neanche una questione etica. Provo a vederla da questo. Io lavoro negli enti locali, faccio il capo di gabinetto in un ente locale, costantemente in avviso pubblico sono in relazione con sindaci e amministratori. Cos'è che scatena la responsabilità in un amministratore? Io credo che nel nostro paese ce ne sia un'enorme parte sana, ce n'è un'enorme parte in questi territori e anche in quella parte lì sui beni magari non ci si muove tanto, o sul tema delle mafie non c'è una grande attenzione. Sono due gli elementi: l'emergenza, che muovono spesso gli amministratori. C'ho questo casino, c'ho l'acquedotto, c'ho questo. Se io non percepisco il tema mafia e criminalità come un'emergenza nel centro e nel nord, alcune cose non le faccio, ma non perché sono un irresponsabile, perché non me ne accorgo. Non lo sento come un'emergenza, e non lo sento come un'emergenza e forse perché non ho gli strumenti culturali per leggerlo, non ho mai avuto il bisogno di costruirmeli più di tanto in alcune situazioni, ho potuto percepire che non avevo gli strumenti, che potevo farne a meno di studiare quegli aspetti nella loro specificità, per non parlarne tanto per parlarne, come diceva Stefania, ma costruirmi la competenza per parlarne. Ma il problema è che così come sono gli amministratori, sono i territori. Perché ciò che muove spessissimo gli amministratori in termini emergenziali viene dalla filiera della relazione con i loro cittadini, che tra sistema di un bene confiscato e aggiustami la strada sotto casa hanno come emergenza aggiustami la strada sotto casa, e gli amministratori vivono in un momento di risorse scarse. In un momento di risorse scarse cosa fai? Fai delle scelte, devi scegliere dove metterle. E allora diventa importante cos'è prioritario. E se non costruiamo una cultura per cui quegli elementi sono prioritari, questi aspetti, che è una cultura spesso scarsa, io non lo dico come elemento di giustificazione, ma dico che se voi lo leggete con il filtro esclusivo della responsabilità intesa come dimensione morale, finite per attribuire, per trasformare una questione sociale e collettiva in una questione individuale. Finite per immaginare che cambia quel sindaco, cambia quell'assessore e cambia la sostanza. Questo è vero solo talvolta. Quel sindaco, quell'assessore sta in una relazione con il territorio. Io conosco amministratori che l'hanno fatto in alcune situazioni perché non si poteva far diverso, perché la pressione sociale era talmente forte che sono costretto a rispondere. Allora, sono due temi che vanno affrontati e guardati. Ciò non significa dire non avete alcuna responsabilità, però ciò secondo me significa leggere quel tema della responsabilità dentro un contesto relazionale e non esclusivamente come un fattore individuale. Poi ci sono i fattori individuali, incidono, sono fondamentali, ma non c'è solo quello. Il problema al centro e al nord è che noi siamo in 9, 10, 11 a parlare di questa cosa qua. Non è percepito come una cosa che ci riguarda, non è percepito come una cosa di cui parlare con competenza. Abbiamo fatto un percorso formativo lunghissimo in Regione Lombardia. Se noi diciamo il nome Totorina, tutti sapevano chi fosse. Se noi dicevamo Piro Malli, abbiamo fatto la domanda in un'aula da 50 persone, hanno alzato la mano in 4 per dire sì, sappiamo chi sono i piromalli. Ma il problema è che se io lavoro in un ente e vedo piromalli scritto su qualcuno che mi sta chiedendo una concessione per qualcosa, non mi si solleva, è un nome come un altro, se io no. Allora è un tema da trattare con il tempo, con attenzione, con studio e con riflessione. Io mi chiedo in tutto questo, Lucio, a te, in quel contesto lì, cosa ti ha smosso? Cioè, qual è la leva in termini di responsabilità? Il perché ti ha fatto lavorare su questi temi? E come hai fatto? Perché tu, ancora di più, in un contesto con un sacco di vincoli e di difficoltà. E di questa esperienza cosa può transitare fuori, pur con tutte le differenze tra nord e sud, la tua esperienza, l'esperienza di Lucio e di una persona che ha costruito il consorzio Sviluppo e Legalità nell'Alto Belice del Palermitano, rete di beni confiscati, e l'esperienza di una persona che fa il segretario comunale oggi a Partinico, lo ha fatto a Corleone in moltissimi comuni sciolti per mafia con incarico prefettizio, no, per darvi un quadro anche e un senso del perché lui può rappresentare forse alcune cose e raccontarcele, quindi anche cosa può transitare fuori da quel contesto, di quell'esperienza, e quali sono gli elementi principali dal tuo punto di vista a cui porre attenzione. Sì, innanzitutto ovviamente ringrazio Avviso Pubblico per avermi dato questa la possibilità appunto di rappresentare la nostra esperienza su una tematica assai delicata, come ha detto Stefania, costituisce come possiamo dire una delle frontiere dell'azione dello Stato finalizzata a contrastare il crimine organizzato. È vero che la normativa nazionale in materia di contrasto al crimine organizzato è una normativa all'avanguardia, non soltanto le norme sui beni confiscati alla mafia, ma anche, ricordo, la normativa sulla documentazione antimafia, sulle verifiche antimafia, la normativa sullo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose. Sono tutte norme che sono nate, diciamo, legislazione d'emergenza, cioè quindi nasce anche la stessa legge 646/82, che è la legge Rognoni-La Torre, che ha codificato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma anche ha codificato nel nostro ordinamento per la prima volta la possibilità di confiscare i beni ai mafiosi. Sono leggi emanate subito dopo fatti eclatanti posti in essere dalle organizzazioni criminali, principalmente da Cosa Nostra, come voi sapete, che ha attaccato frontalmente lo Stato e che ha avuto il suo apice questo scontro con le stragi dove ha perso la vita Falcone, i giudici Falcone e Borsellino. Quindi si tratta sicuramente di norme d'avanguardia, ancora oggi sono passate dalla Rognoni-La Torre dell'82, quindi sono passati più di 30 anni, la legge in materia di verifiche antimafia, di scioglimenti dei consigli comunali sono leggi degli inizi degli anni 90. La legge sul riutilizzo per fini sociali di beni confiscati è una legge del 1996, è l'ultima in ordine di tempo. Queste normative sono state modificate, come possiamo dire, al fine di adeguare appunto il dettato normativo alla mutevolezza del quadro, perché le organizzazioni criminali sono maestre nel cercare di eludere le norme e comunque sono molto più veloci di noi, se è vero come è vero che siamo sostanzialmente alle soglie del 2020 e nonostante siano passati più di 25 anni dall'entrata in vigore, quasi 25 anni dall'entrata in vigore della legge 109 sul riuso sociale dei beni confiscati, ci sono ampie fette della pubblica amministrazione italiana che non conoscono quelle poche ma essenziali norme in materia di confisca dei beni e di riutilizzo dei beni per finalità sociali. Noi alibi, no, quando parlo del Mezzogiorno d'Italia, non ne possiamo avere, perché, come possiamo dire, abbiamo subito sulla nostra pelle la presenza delle organizzazioni criminali, e tocchiamo con mano soprattutto chi opera all'interno delle pubbliche amministrazioni, come l'organizzazione criminale condiziona l'attività della pubblica amministrazione. Un piccolo inciso, sono d'accordo con Stefania quando dice che viviamo un momento storico assolutamente particolare. Tu hai citato la sentenza alla Corte di Cassazione sulla mafia a Roma Capitale, ma io ti posso citare tutta una serie di pronunce di giudici amministrativi, particolarmente nella regione Sicilia, che cercano di picconare strumenti normativi all'avanguardia, assolutamente fondamentali per contrastare il crimine organizzato. Faccio riferimento soprattutto alle norme in materia di documentazione antimafia. Noi oggi, sostanzialmente, le pronunce dei giudici amministrativi siciliani è come se l'organizzazione Cosa Nostra non esistesse più, la nostra non è più un'economia illegale, ma è un'economia legale. Ci sono pronunce di tribunali della Repubblica che lasciano alquanto perplessi sulla base del principio che il padre era mafioso e quindi è giusto confiscargli il patrimonio. Stiamo parlando di soggetti che erano o organici all'organizzazione Cosa Nostra o erano vicini all'organizzazione Cosa Nostra perché riciclavano i proventi illeciti attraverso l'attività edilizia che si è sviluppata nel nostro territorio dagli inizi degli anni 60 alla fine degli anni 70, ebbene, e sì, il padre era mafioso, è giusto confiscargli, no, ma i figli, non c'è nessuna prova del fatto che i loro patrimoni siano frutto di proventi illeciti, come se, come possiamo dire, il legame di sangue, il legame parentale, ma soprattutto la cointeressenza di interessi, come possiamo dire, non rilevasse. Quindi siamo in una fase storica assai più delicata della fase storica che abbiamo vissuto negli anni 2000, dove la critica che si muoveva alla classe politica, che la lotta al crimine organizzato non faceva più parte dell'agenda politica, delle forze politiche del nostro paese. Oggi siamo in una fase ancora più delicata, perché qui non si tratta di chiedere l'emanazione di nuove norme e le norme non vengono emanate, qua si tratta, come possiamo dire, di discutere, di tutelare il patrimonio normativo che oggi noi abbiamo. Perché se cominciano, soprattutto in determinate realtà del Mezzogiorno d'Italia, per esempio la Calabria, a mettere in discussione anche la normativa sullo scioglimento delle municipalità per infiltrazioni mafiose, Pio La Torre, quando codifica il 416 bis, individua con un concetto attualissimo, fra l'altro, questo concetto è partorito da Pio La Torre grazie all'analisi concreta fatta da un giudice come Cesare Terranova, no? Ucciso per mano mafiosa, analisi fatta nei vari processi fatti alla cosca corleonese a metà degli anni 60, quindi stiamo facendo un passo indietro di altri 15 anni. Ma quel concetto giuridico nucleato da Cesare Terranova a metà degli anni 60 è un concetto attualissimo, perché l'essenza tipica dell'attività del crimine organizzato, soprattutto delle cosche, principalmente quelle siciliane, cioè quindi la mafia e l'andrangheta, Cosa Nostra e l'andrangheta, ma anche la camorra, il concetto è un'attività finalizzata ad acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, con la forza dell'intimidazione, eccetera, eccetera, o comunque condizionare l'attività della pubblica amministrazione. Come diceva Stefania, ovviamente la mafia va, utilizzando anche, come possiamo dire, un concetto espresso da Leonardo Sciascia, la mafia va dove c'è il denaro. Le mafie vanno dove c'è il denaro. Quindi in un momento storico in cui, come possiamo dire, gli investimenti maggiori, per quanto riguarda gli investimenti pubblici, venivano fatti nel settore dell'edilizia, noi avevamo la mafia che cercava con i suoi tentacoli, no, di condizionare negativamente l'attività amministrativa finalizzata all'affidamento dei lavori, per esempio, nelle pubbliche amministrazioni. Ma ormai, in un momento storico in cui ormai l'attività edilizia, soprattutto nella nostra realtà, è al lumicino per assenza di risorse, le cosche criminali, la mafia, Cosa Nostra, per esempio nel Mezzogiorno, nelle nostre realtà territoriali, il dato dell'esperienza mi fa dire questo, è il dato dell'esperienza di funzionario pubblico che, come possiamo dire, ha un approccio che dovrebbe avere qualsiasi funzionario dello Stato, no? Nell'esercizio delle sue attività, nella gestione per esempio degli enti locali. Oggi da noi le cosche criminali hanno quasi monopolizzato il settore dei rifiuti, ma non soltanto da noi, hanno monopolizzato il settore dei servizi sociali, cioè diciamo settori che 20 anni fa era assolutamente impensabile che fossero condizionate le organizzazioni criminali. A Roma no. Eh? A Roma no. Non lo conosco la realtà romana, però me lo posso immaginare. A Roma no, sì, lo so, a Roma no. Infatti comunque quella pronuncia smonta, come possono dire, smonta, fa crollare con tutte le conseguenze che ne possono derivare anche in termini di credibilità di chi ci ha lavorato, no? E quindi, oppure il settore del commercio, delle licenze commerciali, perché le organizzazioni criminali sono in una fase in cui hanno necessità di riciclare tutti i proventi illeciti che hanno accumulato, soprattutto attraverso i traffici della droga, di sostanze stupefacenti e non solo. Quindi, riallacciandomi alla questione dei beni confiscati, il mancato utilizzo, quindi come dicevo poc'anzi, noi non possiamo avere alibi, perché noi non possiamo non avere, noi siciliani, cioè chi ci convive, nel senso che ci vive accanto, non può non avere la percezione dell'esistenza del fenomeno criminale. Diversamente saresti sicuramente in malafede, perché la mafia da noi si tocca con mano. La mia esperienza a Corleone, 2 anni con la commissione prefettizia, mi ha consentito di toccare con mano, proprio nei contatti diretti, quella che era la cosca dei corleonesi, che per 40 anni hanno governato porzioni ampie del territorio siciliano direttamente. Non indirettamente, cioè nel senso che molti sindaci erano o organico della cosca criminale, no? O comunque erano espressione della cosca criminale. Quando la Ninetta Bagarella, moglie di Rina, non paga i tributi, perché non pagava i tributi, dietro, stiamo parlando di tributi locali, stiamo parlando quindi di posizioni debitorie nei confronti della pubblica amministrazione, assolutamente minimali, ma dietro quel mancato pagamento dei tributi c'è un'impostazione culturale e ideologica. Io non riconosco lo Stato, perché chi governa il territorio siamo noi, cosca, cioè quindi, come possiamo dire, questa impostazione culturale e ideologica è propria, diciamo, di chi ragionava in quel senso, e comunque di quelle cosche sin da metà dell'Ottocento. Quindi, come possiamo dire, è una cosa radicata, è un modo di pensare. Cioè, quindi la si capisce, quindi anche la questione della cosiddetta trattativa, cioè la cosa più orribile, diciamo, è anche una questione di carattere estetico, vedere lo Stato da una parte e dall'altro l'antistato, perché era antistato, ha discusso questo, almeno così emerge dalla sentenza di primo grado di un tribunale della Repubblica, e dall'altra parte, diciamo, del tavolo sedevano Salvatore Rina, Leo Luca Bagarella, fratello di Ninetta Bagarella e quindi cognato di Salvatore Rina, quindi il clan dei Corleonesi era, come possiamo dire, la controparte, no? Diciamo, di questo patto illecito. Ma l'alibi dell'assenza di percezione oggi voi non lo potete più avere. O siete, diciamo, non miopi, ciechi, o comunque non seguite le cronache, perché se le cronache le seguo io che sono da Palermo, di ciò che accade dalle vostre parti, mi viene facile è un rigore a porta vuota, citarvi la vicenda di Reggio Emilia. È dietro l'angolo Reggio Emilia. Cioè, se la mafia è a Palermo, la mafia è pure ad Agrigento. Io non sto dicendo che a Bologna ci sia la presenza delle organizzazioni criminali, di un'organizzazione, perché questo, di come possiamo dire, le cronache non mi hanno rappresentato questo, ma vi posso dire perché ho letto anche la sentenza di primo grado, del processo. I cutresi hanno monopolizzato e quasi, diciamo, le attività economiche, come qualsiasi organizzazione criminale. Giustamente Stefania, è corretto quello che dice, non sempre l'organizzazione criminale è presente direttamente con la propria faccia, molto spesso si presenta, come possiamo dire, in modo insinuandosi nella economia, che era economia legale, almeno in un determinato momento storico, anche se mi diceva, era un'analisi fatta da chi ha scritto, era un giornalista del Fatto Quotidiano che ha seguito tutta questa questione, mi sfugge il nome, e ha fatto vedere della presenza dei cutresi a Brescello nel 1970. Nel 1970, era una foto in bianco e nero, dove c'erano cinque rappresentanti provenienti da Cutro, che erano seduti tranquillamente in un bar. Quindi stiamo parlando, come possiamo dire, di un periodo storico assai datato nel tempo, perché le organizzazioni criminali non si infiltrano dall'oggi al domani. Se la cancrena, cioè se il cancro sostanzialmente che emerge a Reggio Emilia, con tutte le conseguenze negative che ne derivano, perché voi sapete bene che, a parte che l'infiltrazione dell'organizzazione criminale nelle attività economiche, il passaggio immediatamente successivo è l'infiltrazione nella società, no? Nella comunità locale. E il danno che produce questo, io quando al sindaco che, come possiamo dire, sottovaluta, diciamo così, la questione di, come possiamo dire, del rischio dell'infiltrazione nella propria attività o nell'attività della propria comunità, il rischio che sottovaluta è che nel momento in cui emerge la presenza, dalle cronache giudiziarie nel caso di Reggio Emilia, della civilissima Reggio Emilia, emerge questo messaggio assolutamente negativo. Secondo voi, in un sistema di economia globale, un investitore, faccio l'esempio di un investitore straniero, se deve decidere di andare ad investire, che non vuole correre il rischio, non vuole avere rapporto con la criminalità organizzata, questa è una delle spiegazioni perché da noi non viene nessuno ad investire. È una spiegazione. Perché il grosso imprenditore, l'economia internazionale, a meno che non è un'economia, come possiamo dire, cerca di perseguire attività illecita, preferisce andare ad investire in Albania piuttosto che in Sicilia, quando si deve scontrare con i problemi e del crimine organizzato e di una burocrazia che è pericolosa tanto quanto il crimine organizzato. Ma secondo voi oggi, se decidere di venire ad investire a Reggio Emilia, se io fossi un imprenditore, me lo porrei il problema. E se dovessi decidere, metterei da parte Reggio Emilia, ma è normale, è evidente. Questo sto cercando, non voglio banalizzare, ma il concetto qui è quello. Il rischio che corre il centro nord Italia, perché ormai i piromalli, o chi per loro, soprattutto l'andrangheta, perché la capacità di infiltrazione e la potenza da parte dell'andrangheta è decisamente superiore anche a cosa nostra, ormai siamo arrivati, come possiamo dire, ma neanche sulla soglia, no? Li avete dentro. Lo scioglimento del comune di Bardonecchia del 1994, sciolto per infiltrazioni ndranghetiste. numero dell'informativa antimafia, perché anche quella è la cartina tornasole della perché è uno strumento eccellente, la vicenda Emilia nasce di fatto dall'analisi di un prefetto della Repubblica. È come se fosse mia madre, la conosco da 20 anni ed è uno dei migliori funzionari che ha la Repubblica Italiana. Solo lei poteva, come possiamo dire, scovare la presenza andranghetista in Emilia Romagna, perché è una persona intelligente e molto preparata. Narra lei, cioè qua sto divagando, poi ci arriverò ai beni confiscati. No, no, no, però questo è ascolti. Sì, è legato per dirvi poi perché non utilizzi il bene confiscato. Perché non ci credo che tu non utilizzi il bene, ma poi ci ritorneremo, perché non hai risorse. Non esiste, perché un pubblico amministratore non può fare questo ragionamento, quindi è una contraddizione in termini. Ma ritorniamo alla dottoressa De Miro, che due parole se le merita, però racconta che lei si approccia alla nuova realtà come possiamo dire, non avendo percezione, come possiamo dire, la civilissima Emilia, la civilissima Reggio Emilia, quindi non può mai immaginare la presenza andranghetista a Reggio Emilia. Però, da ottimo sbirro, perché è un prefetto sbirro nel senso più nobile del termine, dice, ma ogni tanto incendiavano una macchina, incendiavano una betoniera, c'erano dei fatti, gli incendi, quando vengono fatti hanno un significato, cioè perché poi le organizzazioni criminali hanno, come possiamo dire, ogni atto che pongono in essere ha anche un significato simbolico. Da noi quando fanno gli incendi hanno un duplice significato, non soltanto vogliono, come possiamo dire, danneggiare la controparte, cioè il destinatario dell'incendio, ma vogliono lanciare il messaggio al territorio, noi siamo qui. Da Partinico, dove per ora lavoro per un po' di tempo, non sappiamo che fine facciamo, ma a Partinico comunicano con gli incendi, una macchina di un vigile, la macchina di una casalinga, cioè, come possiamo dire, atti che apparentemente non hanno un significato, ma il significato ce l'hanno, loro sono presenti. Quindi, per farla breve, da questi piccoli elementi li mette assieme, poi fa l'analisi, perché le prefetture rilasciano, come lo sapete, il porto d'armi, le licenze, no? C'è una quantità a Reggio Emilia di licenze rilasciate dalla prefettura assolutamente abnorme rispetto anche alla stessa città di Palermo. Quindi una persona intelligente inizia a porsi qualche domanda. Che sono quelle domande che dovrebbe porsi qualsiasi cittadino quando nella propria comunità assiste, voi citavate la questione di amministrazione e trasparenza, perché ormai i siti istituzionali degli enti sono un'ottima, come possiamo dire, vetrina per verificare, come possiamo dire, quella che è l'attività della pubblica amministrazione, quando una municipalità non utilizza i beni confiscati che gli vengono assegnati dallo Stato. Stiamo facendo riferimento per esempio ai beni immobili. Perché se è vero come è vero, se è vero come è vero, che mentre la legge 109 del 96, attualissima sotto il profilo dell'utilizzo dei beni immobili, come possiamo dire, è stata poi perfezionata sotto qualche piccolo aspetto, ma funziona ancora, addirittura quella legge prevedeva pure le risorse finanziarie, erano delle risorse che attribuiva alle prefetture per finanziare progetti di recupero sui beni confiscati. Cioè, quindi, perché è vero che oggi si discute di fondo unico di giustizia, perché è vero che il legislatore potrebbe fare un piccolo sforzo e più che altro per togliere l'alibi, più che altro per togliere l'alibi, perché poi vi racconterò un'esperienza dove in assenza di risorse nel contesto del Corleonese oggi 900 ettari di terreni agricoli confiscati alla cosca criminale dei Corleonesi vengono utilizzati da giovani ragazzi uniti in cooperative. Quindi se si vuole si fa. Quindi come possiamo dire, non è un problema di, di impianto normativo che non funziona, esattamente l'opposto, perché grazie a quelle esperienze sono stati, come possiamo dire, adeguati adeguate le norme per risolvere i problemi che emergevano come possiamo dire, nello svolgimento dell'esperienza. Immagino per esempio la questione col decreto legislativo 4, col DL 4 del 2010, quell'istitutivo dell'Agenzia dei Beni Confiscati, una serie di norme vengono redatte da quei sindaci del territorio perché c'erano delle piccole difficoltà. Prima tra tutte, questo ancora irrisolto, il fondo di garanzia, perché voi sapete che beni confiscati che vengono assegnati a cooperative sociali, essendo beni dello Stato, non possono essere utilizzati dai ragazzi delle cooperative per poter accedere al credito. Perché ovviamente gli studi di credito dicono: guarda, questo bene non è tuo, non mi puoi garantire l'accesso con beni non tuoi. Noi, nella nostra piccola esperienza, abbiamo con fondi consortili dei comuni, di questo consorzio di comuni, abbiamo costituito noi con Banca Etica un fondo di garanzia. Grazie a queste piccole, come possiamo dire, manifestazioni di democrazia, e ancora oggi in quel contesto territoriale tre cooperative di giovani continuano ad operare e producono, d'accordo, e diciamo nell'ambito con la supervisione dell'associazione libera, la pasta, il vino, conoscerete queste esperienze. Questa è un'altra cosa strana, c'è maggiore sensibilità sulla questione da parte delle comunità emiliane, che hanno dato parecchio sostegno alle nostre iniziative con finanziamenti privati per l'acquisto del trattore, dell'automezzo, quando da noi, come possiamo dire, dopo una prima fase di assoluta sottovalutazione della capacità delle pubbliche amministrazioni di poter recuperare i beni confiscati alla mafia, si è passata ad una fase più critica. Mi ricordo l'ultimo fu nel 2006, incendio a dei campi coltivati a grano nel Corleonese, che erano gestiti da questi ragazzi di queste cooperative, ma l'intervento dello Stato con i Canadair in tempo reale ed una manifestazione, mi ricordo, con le massime autorità, c'era la risposta dello Stato, di presenza dello Stato nel territorio, da allora atti di intimidazione non ce ne furono più. Però il fatto che esperienze come queste possono funzionare con un dato normativo vigente, con una legislazione vigente, ragazzi che operano su quei territori dal lontano 2001, sono passati 18 anni e ancora reggono il mercato, perché a parte, come possiamo dire, l'attività sociale, perché sono ragazzi che si impegnano, quindi, come possiamo dire, che si sono messi in gioco sin dall'inizio, diciamo che grazie alla loro esperienza, da un lato sono state recuperate questi beni, queste strutture, e come possiamo dire, hanno fatto anche e non solo un'operazione di marketing territoriale, perché se oggi queste esperienze, che ripeto ancora reggono, vengono visitate, come possiamo dire, da cittadini di tutto il mondo, di qualsiasi paese della nostra terra, contribuiscono a cercare di ridare dignità ad un territorio che quella dignità la mafia, l'organizzazione criminale gli aveva tolto. Se i corleonesi vengono conosciuti, la realtà territoriale del Corleonese vengono conosciute a livello mondiale per avere dati natali a Rina e Provenzano, quindi ovviamente con un marchio negativo impresso, l'attività di questi giovani, che sono uniti in cooperative sociali, quindi è il pubblico che concede, quindi i comuni che concedono loro in concessione, come possiamo dire, questi beni, passano a loro il testimone, e di fatto, quindi in base ad un principio costituzionale, che è la cosiddetta sussidiarietà orizzontale, ossia l'associazionismo collabora con, diciamo, questi concetti, come possiamo dire, sono maggiormente conosciuti da voi perché sono più praticati, cioè da noi il rapporto che esiste tra il pubblico, altro che principio di sussidiarietà orizzontale, cioè il pubblico non riconosce il privato è la controparte per la nostra burocrazia. Quindi anche sotto questo piccolo profilo, sotto questo piccolo aspetto, un rapporto tra pubblica amministrazione e privato assolutamente virtuoso, con il privato che ha maggiori capacità evidentemente, il pubblico controlla, perché svolge attività di impresa, il privato ha maggiori capacità di valorizzazione del patrimonio pubblico, perché questi beni confiscati alla mafia, utilizzati dai ragazzi alle cooperative, sebbene loro li mettono in produzione, si tratta tutte di imprese sociali, quindi sono tutte cooperative sociali di tipo B, finalizzate quindi non per, diciamo, non perseguono finalità di lucro, ma perseguono le tipiche finalità dell'impresa sociale, anche producono ricchezza. Producono ricchezza, che non è soltanto una ricchezza, questo è il concetto, economica, perché attraverso la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle terre confiscate alla mafia, che sono trasformate nelle infrastrutture che gli abbiamo messo a disposizione come pubblico con le risorse recuperate grazie alle risorse del Ministero dell'Interno, ebbene è ricchezza non soltanto economica, perché comunque traggono sostentamento, ma anche, come possiamo dire, è ricchezza per quel territorio, proprio perché ha un valore economico il recupero di un'immagine che quel territorio, come possiamo dire, positiva aveva perso. Quindi il fatto che queste esperienze hanno potuto attecchire anche in realtà complicate come quelle del Corleonese, i comuni sono Corleone, San Giuseppe Iato, San Cipirello, che ultimamente è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, Monreale, quindi comunque realtà che hanno subito la presenza mafiosa in modo pesante, presenza mafiosa che ha anche condizionato, ripeto, la vita sociale di quelle comunità, perché a Corleone c'erano Irina e Provenzano, a San Giuseppe Iato c'era Brusca, Brusca padre, probabilmente conoscete Giovanni Brusca, che è il figlio, ma a San Cipirello c'erano gli Agrigento, cioè erano sostanzialmente soggetti che hanno governato in modo criminale quei territori. Quindi nel momento in cui non si utilizzano i beni confiscati, o comunque addirittura neanche si richiedono in assegnazione i beni confiscati che lo Stato vuole mettere a disposizione degli enti locali per il loro recupero, certamente è un elemento che potrebbe, come possiamo dire, far rilevare un condizionamento dell'attività politica da parte delle organizzazioni criminali. Se un sindaco o un amministratore locale comunque non vuole acquisire o comunque non vuole interessarsi di a maggior ragione quando gli vengono concesse in condizioni tali da poter essere immediatamente riutilizzati, perché probabilmente la problematica dà fastidio o comunque dal suo punto di vista può assumere una scarsa valenza politica sulla base di un'analisi, come possiamo dire, di rischio ben valutata, la mancata richiesta, dal mio punto di vista, equivale ad un mancato utilizzo di un bene che tu hai, allo stesso disvalore sociale, allo stesso disvalore politico, perché gli enti locali nella nostra Carta Costituzionale sono articolazioni della Repubblica, come lo Stato e la Regione, sono anzi coloro i quali hanno il governo di prossimità, cioè sono coloro i quali dovrebbero dare, che hanno rapporti più diretti con le comunità locali, che dovrebbero soddisfare in modo diretto i bisogni delle comunità locali. Ora, il mancato riutilizzo dei beni confiscati, con la presenza di strumenti, basta un minimo di buona volontà, se uno fa l'amministratore locale l'unica cosa che non gli deve mancare è la buona volontà, altrimenti cambia mestiere, ma è anche, come possiamo dire, un dovere istituzionale riutilizzare il bene confiscato. Nelle realtà che io ho gestito, molto spesso difficili, laddove quasi sempre, se non sempre, da una prima analisi, da un primo monitoraggio sullo stato di utilizzo dei beni confiscati, laddove erano presenti criticità, come possiamo dire, di una certa complessità, evidentemente, assai spesso, ripeto quasi sempre, corrispondeva un condizionamento delle organizzazioni criminali nella vita amministrativa di quelle comunità. Faccio l'esempio di Corleone, vi posso fare anche altri esempi. Non vi voglio citare Partinico, perché ancora non si sa, però a Partinico, per esempio, vi diceva Stefania, la professoressa Stefania Pellegrini, che è fondamentale cercare di capire l'utilizzo da parte, come possiamo dire, degli organi di una pubblica amministrazione dei beni confiscati, e distingueva tra finalità istituzionali e finalità sociali. La sostanziale differenza è la finalità istituzionale: ci faccio in quel bene confiscato una biblioteca, uffici comunali, quindi una finalità, come possiamo dire, strettamente connessa allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente locale. La finalità sociale si fa con procedura di evidenza pubblica, si mette a bando e si coinvolge il mondo dell'associazionismo nella gestione del bene confiscato. A Partinico, perché la prima cosa che io faccio ogni volta che vado nei comuni è il monitoraggio e pubblico i dati. Si parlava poc'anzi sulla normativa, sul decreto trasparenza, il 33 del 2013, ripeto, un'ottima vetrina per poter controllare. Ebbene, mi rendo conto che a Partinico c'è una quantità enorme, i beni confiscati assegnati al Comune di Partinico sono circa 30, ma 30 reali, cioè 30 beni immobili, 3 terreni e fabbricati, quasi tutti erano con finalità istituzionale. Non conoscendo il territorio, mi faccio un giro e quasi tutti i beni destinati a finalità istituzionali erano terreni agricoli. Scusate, ma togliete una curiosità. Ma che ci fate qua? Che ci volete fare? No, ma sa, era evidente che era un modo per evitare che quel bene venisse riutilizzato. Semplice. Non c'è altra spiegazione, perché se io ho un terreno agricolo confiscato fra l'altro alla famiglia Vitale di Partinico, Vito Vitale, ormai assicurato alle patrie galere, era colui il quale, in pieno, come possiamo dire, governo dell'organizzazione Cosa Nostra da parte di Rina, cioè dopo che aveva sconfitto i palermitani, quindi come possiamo dire era all'apice del suo successo criminale, Rina, quindi con tutto quello che ne consegue, Vito Vitale si opponeva a Salvatore Rina, perché lui, nella sua arroganza mafiosa, come possiamo dire, era Vito Vitale. Cioè, quindi, per farvi capire lo spessore, era colui il quale si contrapponeva, poi venne arrestato. Ma l'impostazione è quella, quindi stiamo parlando di un personaggio che ha uno spessore criminale notevolissimo. Quasi tutti quei terreni erano suoi e della sua famiglia. Quindi cosa è stato fatto? Abbiamo semplicemente fatto un atto deliberativo, già mi immagino dove andranno a finire, però uno ci tenta, in cui abbiamo trasformato la finalità istituzionale, totalmente illogica perché era assolutamente non compatibile né con la vocazione del bene, no? Né con l'ubicazione del bene. C'erano beni, terreni agricoli a 10 km dal centro abitato, finalità istituzionale, chissà ce lo fanno fare, non ne ho idea. E l'abbiamo trasformato in finalità sociale. Questi beni, proprio oggi ho firmato il provvedimento, li stiamo mettendo a bando. Sono pessimista, ve lo dico, penso proprio che, perché c'è scarsa sensibilità nelle comunità locali, probabilmente quei beni, tra cui io a Partinico ho fatto l'esperienza di segretario del comune, generale del comune nel 2005, dal 2005 al 2007. Mi insedio come segretario comunale e mi ricordo come prima appunto all'ordine del giorno c'era l'acquisizione al patrimonio del comune di beni confiscati a Vitale, sempre lui, a Vito Vitale, 2005. C'è una questione tecnica che, come possiamo dire, potrà raccontare, vi evito perché potrebbe tediarvi, tutta la normativa, perché quel bene era abusivo, c'erano dei beni sul terreno, quindi c'era la possibilità di acquisirlo al patrimonio o a seguito dell'applicazione della normativa a tutela dell'urbanistica, quindi dell'assetto del territorio, o, come possiamo dire, a tutela della sicurezza, perché lo Stato apre due procedimenti, uno per violazione delle norme urbanistiche e uno perché provento illecito. Poi, analizzando questi, perché poi col dato dell'esperienza uno si arricchisce anche da un punto di vista professionale, perché poi si scopre che per l'ordinamento, è pure giusto, prevale il procedimento per violazione delle norme urbanistiche, perché tu stai violando l'assetto del territorio, tant'è che quello è acquisto a titolo originario, mentre l'acquisto per confisca è a titolo derivativo. Comunque sto bene è stato acquisito al comune, bisognava fare una semplice delibera di consiglio comunale. Ero appena arrivato e mi facevano: ah dottore, stasera c'è quell'atto. Cioè, ma quale atto? Ah no quello. Ho detto, chissà che atto sarà. Leggo sto atto, Vito Vitale lo conoscevo perché lo conoscevano tutti, ho detto, ah vabbè. Cioè, per quel consiglio comunale è stato convocato a distanza di 2 anni, rinviavano la seduta da 2 anni, tant'è che il presidente del consiglio si beccò anche la denuncia per omissione di atti d'ufficio. C'era un silenzio in aula consiliare, cioè è come se, come possiamo dire, stessero manifestando, non era la loro volontà, proprio, come possiamo dire, la loro contrapposizione rispetto all'organizzazione criminale, perché di fatto quello era, ma non potevano né volevano farlo. Per farla breve, bene acquisito al patrimonio del comune, quel bene. Potrei scrivere un libro su queste storie, perché c'è, perché c'è una storia di un cavallo bianco, guardi, cose siciliane, cose grottesche. Per farvela breve, dopo 2 anni, dal 2005, vengono abbattute le cosiddette stalle dei Vitale. Erano dei manufatti abusivi, orribili, in amianto, cioè cose orribili, erano belle pietre con dei manufatti abusivi. Purtroppo la storia è triste, perché per quei terreni perse la vita, uccisero un avvocato locale perché non glieli voleva cedere, sostanzialmente la franca. Vengono abbattute in pompa magna, lo sta prefetto, questori, tutti quanti, vengono abbattute le stalle dei Vitale e io vado via. Quindi io mi ricordo che quei terreni 2007, perché dopo 2 anni, quei terreni, che io me li ricordo perché avevo la memoria storica, che avevo fatto già 2 anni a Partinico, quando mi sono reinsediato a Partinico, che è stato novembre dell'anno scorso, e vedo l'elenco dei beni confiscati, mi ritrovo quei terreni. E tecnica, finalità istituzionali. Per farvela breve, dal 2005 al 2019, quei beni stanno lì così come li avevo lasciati. Mai un bando, nulla. Perché? Questo ora non è una cosa irrilevante. Quando io vi dico che il mancato riuso dei beni confiscati può costituire, e molto spesso costituisce, un elemento di valutazione in ordine al condizionamento di un'attività di una pubblica amministrazione, è l'esperienza che me lo fa dire. Non so come finirà a Partinico, però vi fa capire come, se questo è il mio approccio, immaginatevi l'approccio dell'investigatore, delle forze di polizia, gli elementi che possono trarre da questi fatti. Ho parlato troppo. Quindi, il riuso dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, sostanzialmente, è un dovere non solo morale, ma anche giuridico dei pubblici amministratori. È un dovere morale e giuridico. Se uno non vuole, come possiamo dire, mettersi, non vuole esercitare quelle che sono le funzioni che gli vengono attribuite dal nostro legislatore, dalla nostra carta costituzionale, l'alternativa ce l'ha. L'alternativa è andare via. Perché? perché soprattutto nelle nostre realtà chi fa l'amministratore locale si contrappone il concetto che vi avevo espresso poc'anzi ad un altro potere che non è il potere costituito, il potere dell'organizzazione criminale. È come se governassero due soggetti dello stesso territorio. La pluristatalità. Santil Romano diceva infatti che l'organizzazione Cosa Nostra, l'organizzazione criminale mafiosa era una forma ordinamentale. Cioè, perché loro emanavano norme, ne garantivano l'esecuzione e poi esercitavano giustizia. Quindi è anche un modo per evitare che tutto quello che oggi è economia illegale, cioè diventi fra 10-15 anni, per il mancato esercizio di attività di controllo, che anche quello è dovere giuridico di un'amministrazione locale, diventi economia legale. Grazie. Siamo andati lunghissimi, altro che 20 minuti e 20 minuti, tutti e quanti. A questo punto ci avviamo alla chiusura, ma prima della chiusura a voi, insomma, siamo qua. E tanto Lucio ci ha messo 6 ore a arrivare e prima di domani non parte. Io neanche, Stefania è di queste parti, quindi insomma, a questo punto a voi, insomma, se c'è qualcuno che vuole esprimere un commento, fare una domanda, una considerazione. Si può. Ok. Dico una cosa, poi forse anche Giulia, e ovviamente perché ho lanciato il tema, e l'ho lanciato provocatoriamente ma volontariamente. Se l'impressione che ho dato è di giustificare, ho dato un'impressione sbagliata. Però credo che ci sia una questione che dal mio punto di vista è rilevante. Se io immagino gli amministratori pubblici che incontro, ne incontro molti, credo di incontrarne una parte che ha interessi e collusioni fortissime con le organizzazioni criminali. Credo di incontrare una parte che non ha interessi e collusioni forti, ma che ha ben chiaro che succedono cose rispetto alle quali tutto sommato non conviene agire. Ne incontro molti, invece, che non hanno proprio quella percezione. E questo mi preoccupa, è per questo che dico che il filtro della responsabilità intesa moralmente, non intesa dal punto di vista dell'ente che ne ha la responsabilità profonda, come dici tu, è rilevante. E lo dico perché il tema che mi preoccupa da persona che lavora nelle amministrazioni pubbliche è che questa battaglia, se non la combattiamo insieme, tra chi sta da un lato dell'amministrazione e chi è dall'altro, non la vinciamo. Per combatterla insieme c'è bisogno di riconoscimento reciproco. Il riconoscimento reciproco passa dal riconoscere i bisogni, le istanze che tu stai portando, dal mio punto di vista, questa è una questione del tutto mia, ma passa anche dal fatto che le amministrazioni pubbliche siano in grado di raccontare chi sono oggi nel nostro paese. Le amministrazioni pubbliche oggi nel nostro paese sono le amministrazioni pubbliche che hanno lo stock di dipendenti per anzianità più alto di tutta Europa. Nel 2020 un terzo dei dipendenti avrà 60 anni. Di questi il 30% non ha neanche il diploma di scuola superiore. Io non costruisco giustificazioni, non mi interessa giustificare nessuno. Se ho dato questa impressione mi dispiace, ma quel dato di realtà è un dato di realtà per cui in un ente locale, non parlo del Comune di Bologna nello specifico perché non lo conosco a sufficienza, tu hai a disposizione su 50 funzionari 5-6 persone che hanno competenze e voglia per fare una quantità di cose enormi, perché l'ente locale fa dalle carte d'identità alle concessioni, dagli appalti alla mensa, cose sempre più difficili nel tempo. Cosa accade in questo disastro? In questo che è un disastro epocale, rischiosissimo, che la tua capacità di far fronte a problemi tanto complessi è bassa. È dannatamente bassa, e già è bassa, ma se tu sei Lucio Guarino, con le competenze di Lucio Guarino, e l'importanza di Lucio Guarino è che ci dice che è possibile, che la giustificazione non esiste, perché si può fare, ma non mi interessa leggerla solo dal punto di vista puoi, non puoi, voglio entrare nel meccanismo del come. E quello che io dico dalla mia esperienza, che mi preoccupa, lo dico in termini di preoccupazione, che centinaia di sindaci da Lainate a Grugliasco, paesini da 15, 20, 30 mila abitanti, come può essere, o ancora più piccoli, come quelli che ci sono qua, non hanno questo tema nell'agenda. Non ce l'hanno, ma non sono fra quelli che non ce l'hanno perché hanno cointeressi o perché sanno e tutto sommato non conviene. Non ce l'hanno. E la costruzione del fatto che quel tema entri nell'agenda politica è collettiva. Noi come Avviso Pubblico abbiamo fatto un appello prima delle elezioni chiedendo di firmarlo, perché era anche un modo per parlarne. Abbiamo letto i programmi dei partiti. Non ce li aveva praticamente nessuno questi temi, 4 righe, ma perché non ce li mettono? Io non penso, per come conosco il mondo della politica, perché tutti sono a braccetto e non conviene fare quelle cose lì. Perché non gli frega? Perché non li prendi i voti su queste cose qui. Non li prendi. È un problema che, se leggiamo solo come un problema, chi sta dall'amministrazione è la società che marcia, chi sta come EMA sono gli amministratori che non vogliono, non lo risolviamo. Non lo risolviamo. E io sono d'accordo con te, ci vuole quella volontà lì. In alcune situazioni è più difficile agire, ma è più facile vedere. A Napoli, la storia di Napoli, di De Magistris, Nest, è un'esperienza interessantissima. È un'esperienza, peraltro, tutta che surfa sulla norma, in cui la responsabilità che ti assumi e la responsabilità che si assumono i sindaci ogni giorno è enorme, perché rispondono penalmente di tutta una serie di cose. E nel nostro paese sono tantissime le cose in cui tu fai scelte e sei lì, e sei sempre sulla... o sbaglio, Lucio, no? Allora io vi prego non di interpretare il mio intervento non come l'intervento di chi vuole giustificare qualcuno. Io non voglio giustificare nessuno, non mi interessa, non mi sembra utile, però c'è bisogno di che voi entriate dentro con un minimo di fiducia e di relazionalità, e che voi entriate dentro la macchina pubblica, perché non si candida più nessuno qua, non va a votare nessuno. In un paese come quello da cui vengo io e faccio il capo di gabinetto, che fa 37.000 abitanti, hanno votato meno della metà degli aventi diritto. Fai il presidente del consiglio con 250 voti. Quanto ci mette l'Andrangheta, che in Piemonte ci sono fiumi e fiumi di carta, a dire da quanti anni è lì, appunto, 94 primo, a spostare 254 voti? O quella è una casa comune, e ce ne occupiamo tutti, e nell'occuparcene questi temi diventano rilevanti, diventa una domanda forte, anche che alcuni sindaci, non perché non vogliono, perché quelli tanto non li smuoviamo, sentono che ha una risposta, o diventa, io lo rappresento così, dico, abbiamo un problema, cioè con Houston abbiamo un problema, questo era il senso, no? Non fermiamoci solo sul fronte del non c'hanno voglia, non vedono, non vedono perché non conoscono, non hanno studiato queste cose qui. Siamo in quattro gatti a studiare queste cose qui. No, e non è che questo li giustifica, la norma non ti giustifica. Io provo a leggere dei dati, non è solo quello, ecco, era questo, non so se mi sono spiegato. E allo stesso tempo mi trovo, si rimette, in una struttura come quella del nuovo. incerte, non c'è la volontà delle amministrazioni di ovviare a questa forte crisi interna, non si va da nessuna parte, perché il singolo funzionario è esposto a tantissime, a tantissimi input esterni, sia a nord che a sud, dove il sistema è rodato in quella modalità lì, e a nord